Il punto di Stefano Folli. Il vero punto politico del discorso di Napolitano, quello che lo rende diverso da tutti gli interventi del passato, sta in quella minaccia implicita di dimissioni. Perché è un sistema paralizzato che si è rivolto all'anziano statista come alternativa al collasso. Quelle dimissioni non può davvero permettersele se non vuole precipitare in un inferno costituzionale. Il Presidente lo sa e ha calcato la mano perché ha bisogno ora di tutto lo slancio che questa condizione eccezionale e irripetibile gli offre. Ne ha bisogno per superare la montagna dei veti incrociati, delle reciproche impotenze, autentico tratto dominante di questa stagione. Napolitano ha fatto capire con chiarezza di non essere tornato al Quirinale per salvare un vecchio assetto partitico, bensì per aprire la strada al nuovo, senza preclusioni verso nessuno, purché non si voglia contrapporre la piazza al Parlamento. Vedremo subito, già in queste ore, con la rapida costituzione del nuovo governo, quanto la scena politica è cambiata, se è cambiata.